Linee d'ombra di Matteo Caccia. Si dà conto che quando uno si trova davanti alla morte o alla presunta tale, gli passa in testa tutto il resoconto della vita, chi gli viene in mente i santi. No, a me mi viene in mente soltanto di evitare lo schianto. In un attimo, uscendo dalla galleria, mi trovo di fronte, praticamente ferma e messa di lato, un'auto della polizia stradale. Storie di inversioni di marcia e di tunnel misteriosi in una puntata che si intitola Pronto Intervento. Buonasera, agente. Buonasera. Patente e libretto, prego. Potremmo fare così. Lei mi chiede i documenti, io le dico che l'auto non è mia e me l'hanno prestata. Vediamo che succede dopo. Oppure potrebbe risalire in auto e andare via. E perché dovrei farlo? Perché certe strade non vanno percorse. Perché le mappe una volta dicevano ci sono i draghi qui. Adesso non lo dicono. Ma non vuol dire che i draghi non ci siano. Papà, rispondi, passo. Può scendere dalla macchina, signore? Quanti anni ha? Ho detto di scendere dalla macchina. Papà, rispondi, passo. Ora le dico quello che succederà. Agente Grimley, io chiuderò il finestrino e me ne andrò via. E lei tornerà a casa da sua figlia e nel corso degli anni la guarderà in faccia e saprà di essere vivo perché ha scelto di non percorrere una certa strada in una certa notte. Perché ha scelto di camminare nella luce invece che nell'oscurità. Mi ha capito? Signore, sto per chiudere il finestrino. Chiunque abbia visto quella serie magnifica che si chiama Fargo, la prima stagione di Fargo dei fratelli Coen, non può aver dimenticato questo monologo. Lui si chiama Lorne Malvo, o meglio il personaggio si chiama Lorne Malvo, l'attore è Billy Bob Thornton, e in questa scena lui approccia questo officer, questo agente di polizia, come credo nessuno abbia mai fatto e come spero che nessuno faccia mai, perché è chiaro che se provi a parlare così un agente di polizia non va a finire come va a finire in questa puntata della serie. Però è magnifico il suo modo di parlare, è magnifica la sua visione delle cose ed è magnifica la sua retorica, la sua capacità di appunto togliersi da una situazione molto molto difficile. La usiamo in questa puntata per aprire questa puntata di Linee d'ombra che si intitola Pronto Intervento, perché entrambe le storie hanno a che fare con un intervento delle forze dell'ordine, con da una parte un piccolo errore nella prima storia, un piccolo errore delle forze dell'ordine che crea nel protagonista della storia, e che è anche ovviamente l'autore, uno scompenso, e dall'altra parte invece in un intervento fortunatamente non tempestivo delle forze dell'ordine del Canada. Questo è Linee d'ombra, è il programma che vi racconta tutti i giorni delle storie di confine, delle storie di passaggio, cioè delle storie che hanno a che fare con una linea da varcare. Di solito si dice che tutte le storie hanno un piccolo viaggio nel loro interno, che sono composte da un percorso che ti porta da un punto A a un punto C, passando per un punto B. Ecco, di solito il punto B è esattamente la linea d'ombra che tutti quanti noi varchiamo, è il confine che varchiamo. Quindi potete mandarci tutte le storie che volete, possono essere storie di infanzia, possono essere storie di lavoro, possono essere storie d'amore, possono essere storie di viaggio. Io credo, tra l'altro, che In questo momento in cui siamo costretti a stare in casa, in cui difficilmente vediamo un orizzonte che sia al di là delle nostre mura o al di là delle mura che il nostro sguardo incontra se guardiamo fuori dalla nostra finestra, ecco, raccontare storie del passato e raccontare storie che poi in realtà, proprio perché parlano di passato, sono una speranza per il futuro, sia proprio il momento adatto per farlo, sia giusto e sia sensato farlo. Quindi Linee d'ombra @radio24.it se avete voglia di mandarci una vostra storia. Stiamo anche raccogliendo le storie che noi abbiamo chiamato dei diari della quarantena, cioè come state passando queste giornate così complesse e complicate. Fatelo, non vi fermate, continuate a mandarcele, sono tutte molto interessanti, sono tutte dei piccoli estratti di realtà, sono dei piccoli modi per conoscere, in questo caso non il mondo, come diciamo alla fine di ogni puntata, ma il vostro mondo, quello che sta all'interno delle mura di casa vostra. Ogni tanto quando mi capita di uscire quelle pochissime volte per portare fuori il cane la sera. Cerco di portarlo fuori tardi, un po' perché così mi sveglio anche più tardi la mattina, un po' perché di fatto non c'è nessuno, e gli faccio fare il giro dell'isolato. Spesso guardo le finestre delle case, che sono quasi tutte accese, anche se insomma, anche se è abbastanza tardi, e mi immagino, boh, chissà cosa starà facendo quella persona, chissà cosa starà facendo quell'altra persona. Ecco, da qualche tempo immagino che stiano facendo quello che ci mandate nei vostri diari. Linee d'ombra @radio24.it. Ora ci dimentichiamo di tutto, siamo su un'automobile che sta correndo lungo la Cisa per andare, pensate un po', al mare, a Livorno, ma lungo la strada c'è un incidente e lì comincia la storia. Era il 1999. Al tempo ero un 27enne con un buon lavoro in una delle tante medie SPA che c'erano in Italia. Stavo rientrando in provincia di Livorno, dove al tempo abitavo, da una trasferta a Milano. Era il mezzo pomeriggio, più o meno, c'era un sole bellissimo. Ricordo che guidavo soddisfatto, ripensando all'incontro di lavoro conclusosi poche ore prima. Percorro la 1 e imbocco la Cisa, conteggiando mentalmente l'orario d'arrivo, perché mi era venuta voglia di andare a farmi un bel bagno al mare. Purtroppo la sorte mi è avversa e mi appare il famigerato cartello luminoso con sopra la scritta code al chilometro tot, e quindi penso addio bagno. In effetti di lì a poco trovo l'incolonnamento. Così nella successiva ora o poco più avanziamo appena di qualche centinaio di metri. Mi rendo conto comunque che l'incidente è successo poco più avanti, perché in lontananza si intravedono i lampeggianti blu della stradale. Tempo mezz'ora e lentamente ricominciamo ad avanzare. Al tempo non c'erano i tutor, forse nemmeno gli autovelox, e le mie medie in autostrada erano normalmente molto, molto più alte di quell'occasione. 130 o poco più era per dire a me stesso: andiamo piano, Luigi. Non sono uno che piace correre in macchina, non lo sono mai stato, o meglio, forse a 20 anni, a 22, un po' di più di oggi, però fondamentalmente non sono uno che ha corso tantissimo in macchina, in certe occasioni sì, evidentemente. E poi appunto c'è il discorso che al tempo non c'erano questi controlli che ci sono ora, così capillari, così efficienti, appunto tutor, autovelox, laser e via discorrendo, per cui forse eravamo tutti, io compreso, un po' più facili nello schiacciare il pedale un po' più a fondo. Entro in una delle innumerevoli gallerie, è una di quelle che io chiamo cieche, una di quelle in curva, per intenderci. In un attimo, uscendo dalla galleria, succede quello che chiunque non vorrebbe mai gli capitasse. Mi trovo di fronte, sulla mia corsia, quella di sorpasso, e me la ritrovo praticamente ferma e messa di lato, un'auto della polizia stradale. A tutti gli effetti non era ferma, ma stava facendo inversione di marcia, approfittando di un'interruzione nelle barriere jersey poste immediatamente dopo l'uscita della galleria. Io inchiodo, piede a fondo sul freno, e mentre le gomme stridono mi viene spontaneo guardare lo specchietto retrovisore, in attesa di essere ovviamente tamponato. L'auto comincia a sbandare a destra e a sinistra a causa della frenata tanto brusca. Sterzo, controsterzo per evitare la collisione con l'auto della stradale e per fortuna, ma non so come, mi ritrovo dritto e ancora in marcia, a velocità evidentemente molto più bassa, oltre l'ostacolo. Ho il cuore a mille. Ho evitato lo schianto pressoché inevitabile, sono infuriato, sono veramente incazzato nero con quei due incoscienti che adesso mi si sono messi dietro. Li guardo, mi stanno circa un centinaio di metri. Accelero e loro, lì, con quei 100 metri di separazione, continuano a seguirmi. Rallento un tantino e loro rallentano. L'adrenalina è sempre in circolo e sempre più potente. Quei due hanno rischiato di ammazzarmi e di farsi ammazzare. In un attimo mi si definisce esattamente il da farsi. Chiamo Luca, è un mio amico poliziotto. Gli racconto velocemente l'accaduto, voglio capire se i due hanno torto, se io soprattutto ho titolo di incazzarmi. Lui mi spiega che sì, i due hanno torto, che per eseguire quella manovra avrebbero dovuto avere le luci lampeggianti accese. Mi dice che se io facessi un reclamo o una roba simile, i due rischierebbero di perdere la patente speciale di guida e che questo causerebbe loro un gran casino. Luca però mi conosce e capisce. E capisce di avermi messo in mano una pistola a carica, quindi si raccomanda di non fare stupidaggini. C'è un detto, non so se è solo toscano o meno, che recita più o meno così: invitare il matto a fare a sassate. Decido che i due devono fermarmi. Se non mi fermano loro, piuttosto li fermo io. Comincio a fare gesti che siano per loro molto evidenti. I due si accorgono molto velocemente del mio gesticolare. Di lì a poco me li ritrovo al fianco. Credo siano piuttosto sorpresi da un comportamento così sfacciato. Quello che mi stupisce è che non c'è una loro reazione oggettiva ai miei gesti. Credo che alla fine sia stata la parola figli di puttana ben scandita dalle mie labbra a farli capitolare. Finalmente il loro finestrino si apre ed ecco la paletta rossa che viene agitata fuori. In un attimo in 50 metri sono fermo sulla corsia d'emergenza. Rimango immobile, in piedi a fianco all'auto. Appena il poliziotto mi è a 10 metri, gli urlo che per poco non mi mandavano all'altro mondo, che si devono vergognare lui e l'altro. Sono parole pesantissime da dire a due poliziotti. Il tizio è paonazzo di rabbia. Io sono 1,80 m per 100 kg, lui però è più grosso di me. La cosa che ricordo di aver visto mentre questo mi si lancia addosso, bloccandomi e schiacciandomi al cofano, è la vena che ha sulla fronte. È un'immagine che ho stampata in testa. Una vena diagonale sulla fronte, gonfia, sembra viva, sembra quasi un'anguilla. Io mi lascio bloccare in quella posizione con la testa sul cofano, non reagisco, sento l'altro arrivare correndo e ansimando grida qualcosa al collega per riportarlo alla ragione. Lì, schiacciato sul cofano, riprendo lucidità. Gli dico che è tutto ok, che può mollare la presa, che sono tranquillo. Quello non tranquillo però adesso è lui. Mi mette una mano, o forse già ce l'aveva, intorno al collo e comincia a stringere. Mentre io alzo le mani a mo' di resa, capendo che lo sbirro ha perso la ragione, grido all'altro di fare qualcosa. La mano al collo però mi fa uscire una vocina strana, la ricordo perfettamente, stridula. Grido qualcosa tipo «fai qualcosa, toglimelo di dosso». Il sopraggiunto mi toglie da dosso l'altro, di peso, io finalmente mi tiro su, mi riprendo e mi sistemo. L'uomo, con l'anguilla sulla fronte, fa altrettanto. Sì, sono un attaccabrighe, quantomeno lo sono stato un attaccabrighe, molto più di oggi. Quello che era importante per me era il fatto di trovare una situazione tale per cui io potessi attaccare briga, tirare la corda così tanto da arrivare a un millimetro prima della rottura della corda e ricucire e recuperare tutto quello che era successo con le parole, con il dialogo, anziché poi come alcuni altri miei coetanei facevano a cazzotti, no? Quindi non ho recuperavo con la dialettica. Questo mi era una sfida fondamentalmente con me stesso. Ma lì mi ero trovato di fronte a questa situazione che era nata dal caso e nel caso poi si era sviluppata evidentemente, in cui effettivamente l'adrenalina era montata così tanto che avevo voglia di far presente a loro in maniera netta, chiara, precisa che erano stati due cazzoni. Dico con tono tranquillo e regolare: ragazzi, scusate, ma avete fatto una cazzata mondiale con quella manovra. Il secondo arrivato mi intima di salire in auto. Cosa che faccio? Mentre gli porgo la patente e i documenti dal finestrino, li sento confabulare tra di loro. Uso i termini esatti che Luca al telefono mi aveva detto poco prima. Li ricordo tutti. È una specie di gergo. Uso addirittura il riferimento del codice della strada o qualcosa di simile. Faccio un velato riferimento al fatto che, con una manovra del genere, addio patente. Voglio che sappiano che so bene quello che dico. Tiro la corda, lo faccio un po' troppo, me ne rendo conto. Che si caghino un po' addosso, che venga loro la curiosità di sapere perché so quei dettagli. Li vedo effettivamente sbigottiti da quello che ho detto. Mi accorgo, anzi, che il piatto della bilancia ora pende a mio favore e ne approfitto perché è in quei frangenti che si vince la partita. Comunque, dico concludendo il monologo, io tra un paio d'ore ho un impegno a cui tengo molto e penso che sia corretto che prima di salutarci mi vogliate dare un documento identificativo, un numero, un nome, qualcosa, perché io possa domattina andare da chi vi comanda e farvi fare un culo come una capanna. Non ricordo chi dei due mi dice che non sono autorizzati a dare il nome e cognome, ma che posso tranquillamente fare riferimento al numero di targa della loro auto. L'occhio mi scappa subito verso la loro auto, che però è troppo lontana per annotare la targa. E nel frattempo i due cominciano ad arretrare di qualche passo, come se nulla fosse. Io tolgo lo sguardo dalla targa, che è illeggibile, e mi rendo conto che davvero quei due si stanno allontanando. Se la stanno letteralmente dando a gambe. Prima indietreggiano di qualche passo, poi a passo svelto, poi sempre più veloce, e in un attimo hanno coperto quei 100 metri o poco più che separavano le nostre due auto. Montano e partono a razzo. Per anni, quello che successe quel pomeriggio l'ho potuto raccontare solo a Luca, l'amico poliziotto che chiamai. È una storia che rasenta l'incredibilità, intesa come non credibilità. Mi sono tenuto dentro questo film per anni, finché, appunto, anni dopo, non mi successe un fatto del tutto analogo. Ma in quell'occasione avevo la mia fidanzata dell'epoca in auto con me, e dunque avevo una testimone. Si intitola Pronto Intervento, la puntata di oggi, e lo capirete non solo dalla storia che abbiamo raccontato, la storia di Luigi, ma anche dalla prossima. Però, come sempre facciamo, noi decidiamo il titolo della puntata in base soprattutto al cuore narrativo della storia che ci arriva dal nostro ascoltatore. In questo caso il cuore narrativo della storia di Luigi è, diciamo, decisamente molto pulsante. Era anche più lunga, in realtà era molto più lunga di così. La storia abbiamo dovuto accorciarla per motivi di durata radiofonica, però grosso modo la storia è questa qua. Pronto, ciao Luigi, buongiorno. Ciao Matteo, buongiorno a te. Come stai? Come tutti, credo, più o meno. Diciamo alti e bassi, ma dato il periodo, bene, rispetto ad altri soprattutto. Tu dove vivi adesso, Luigi? Io sono a Viareggio. Sono a Viareggio, quindi Toscana, che rispetto ad altre zone, sì, per fortuna meno falcidiata, però comunque è una zona che sta dicendo la sua in termini di, purtroppo, contagi. Sì, è abbastanza colpita. Però, guarda, la domanda che faccio a tutti in questo periodo è... hai una casa con un balcone, un terrazzo o addirittura un giardino? No, sono fortunato, ho una casa grande con un giardino altrettanto grande, per cui diciamo ho tre bambine, ma comunque diciamo, ecco, se la stanno passando, okay, per fortuna molto meglio di altre situazioni che vengono raccontate. Senti Luigi, andiamo alla storia. A me la prima cosa che viene in mente da chiederti, a parte che erano 21 anni fa, quindi insomma... Sì, era il 99. In 20 anni le persone, magari non è che cambiano, però magari un po' si ammorbidiscono. Ma tu, diciamo, sei uno che si definirebbe un attaccabrighe? Lo sono stato, Matteo. Lo sono stato. Un po' si percepiva, sì, devo sì, dire. Sì, dal racconto che hai letto senz'altro si percepiva, ma in realtà non era un attaccabrighe, come dire, del tipo Manesco, No, è chiaro, però che... Che tentava, non so per quale motivo, poi mi si è smussata, qualche rarissimo episodio, però ero uno di quelli che cercava di... A seconda della situazione cercava di portare, tirare la corda fino al un attimo prima del punto di rottura, no? Mm-hmm. E cercavo un po' di recuperare, quella era la sfida, recuperare con la dialettica, con parlare, con le parole, e spesso e volentieri tutte queste situazioni che sarebbero finite altrimenti a cazzotti finivano con una birra condivisa o un caffè, eccetera. Ah, quindi non ti è mai andata male? No, mai veramente. Ok. Senti Luigi, ma tu hai capito che cosa hai rischiato quel giorno? Cioè, al di là del rischio di fare un incidente e farsi veramente male tutte e due, questo è chiaro, perché ti trovi una macchina di traverso in autostrada alla fine di un tunnel, è una roba gravissima. Ma tu hai rischiato che loro potessero arrestarti, potessero... Non l'ho, Matteo, pensato nemmeno un attimo. Io dal momento in cui ho deciso di agire per come ho agito, mm-hmm, avendo avuto quindi l'imboccata del mio amico... Cioè, beh, certo, quella strategia lì di chiamare l'amico poliziotto è straordinaria, nel senso che a quel punto usi la loro... il linguaggio. Da una parte mi ha dato il là per tutta la situazione, no? Certo. Dall'altra però me l'ha dato perché sapevo di essere nella ragione, fidandomi di Luca, evidentemente, tutto quello che mi aveva raccontato in quei... non so, 30, 50, 120 secondi di telefonata, quindi no, non ho mai pensato, io pensavo che a un certo punto però la situazione si trasformasse perché il poliziotto della stradale, che quello più, diciamo, incattivito, aveva perso la ragione veramente. Lui, come me, no? Certo. Perso in tempi diversi, ma avevamo perso entrambi la lucidità. Chiaro. Pensavo che andasse a finire male, ma era un discorso proprio di, come dire, di, tra virgolette, violenza, no? Che ci potessimo fare l'un l'altro. Alla fine avrei registrato io, e poi sarebbe andato. Certo. Però anche lì, con la dialettica, poi si è tutto risolto. Senti, invece, prima di poi di salutarti e ringraziarti, poi tu in chiusura citi un'altra volta, dici è accaduto un'altra volta, sì. Ma avevo un testimone, a cosa ti riferisci? Giuro, era la mia fidanzata del tempo, Lucia, condensata veramente in tre parole. Alla fine era luglio, la folla che si era radunata intorno alla macchina mia e dei carabinieri in quel tempo, che mi avevano fermato dopo che loro non avevano rispettato uno stop. Io gli avevo fatto mandandoli probabilmente a fare in culo, la gente... Il capannello di gente che si era fermato si stava chiedendo, e questo lo sentì la mia fidanzata del tempo, si chiedevano se ero io che avevo fermato loro o loro che avevano fermato me. E lì è andata a finire bene anche lì. Sì, anche nella stessa maniera, anche loro sono montati in macchina, sono andati via, dopo che avevo chiesto, ma chi, ora mi dite chi cazzo siete, tutto sommato, e loro si sono montati in macchina e sono andati via. Luigi, se sei d'accordo con me, comunque io lo direi come disclaimer, non fatelo a casa, nel senso che è meglio evitarlo, anche se sia un'ottima dialetto. Luigi, grazie davvero, grazie per la storia, per la chiacchierata, stai bene, in salute, in bocca al lupo per tutto. Anche te, Matteo. A presto. Ciao, buon lavoro. Grazie mille. Ciao. La puntata di oggi si intitola Pronto Intervento e dopo la storia, devo dire, particolarmente rocambolesca, questa è una di quelle storie che dovrebbe avere un disclaimer tipo non fatelo a casa, tantomeno non fatelo per strada, anche se adesso siamo molto poco in giro per strada, ma quanto non fatelo con la polizia, men che meno con la polizia, ma non fatelo con nessuno, perché come diceva una persona molto molto accorta che conoscevo, non sai mai chi puoi trovare sull'altra auto che incontri. Ora sentiamo le borse in diretta, poi torniamo a raccontare un'altra storia che parla di pronto intervento qui a Linee d'Ombra. Linee d'Ombra. Pronto intervento, si intitola la puntata di oggi. E dopo la storia che abbiamo raccontato poco fa, la storia che ci ha mandato Luigi, ora ve ne raccontiamo un'altra. È il racconto di un intervento molto molto ragionato da parte di una polizia, che in questo caso è la polizia canadese, quando viene chiamata perché qualcuno ha scoperto un tunnel misterioso alla periferia della città di Toronto. State con noi. Nel mese di gennaio del 2015, in un parco alla periferia di Toronto, in Canada, viene fatta una scoperta piuttosto banale che mette in allarme tutto il paese. Un misterioso tunnel. No one knows who dug the 30-foot long tunnel near the site of this year's Pan American Games in Toronto. A bizarre tunnel found near one of the venues for the upcoming Pan Am Games has sparked fears of an imminent terror attack. Rarely has a dirt tunnel received so much attention. No one knows why it was created. Quando succede qualcosa di inspiegabile come questo, naturalmente la gente impazzisce speculando su quello che potrebbe essere. It's not just the sophistication that police say is troubling, but the lack of suspects or a motive. I media si chiedono se il tunnel possa essere stato usato per piazzare una bomba ai prossimi giochi panamericani che si terranno nelle vicinanze di lì a poco. O forse qualcuno stava per costruire un laboratorio di metanfetamina in quel tunnel, oppure un'operazione per coltivare della marijuana. Oppure qualcun altro avrebbe usato il tunnel per nascondere gli atleti stranieri ai giochi panamericani che avrebbero voluto rimanere in Canada, magari legalmente. Ma la verità su quello che succedeva in quel tunnel e sul suo scopo non aveva nulla a che fare con tutto ciò. Stiamo parlando di un tunnel, un banalissimo tunnel scavato nella terra, in mezzo alle piante. Lo trova per caso un tizio che passa lì vicino, lo segnala alla polizia. Nel buco, oltre ad alcuni attrezzi da lavoro, vengono ritrovati anche un rosario e un pupazzetto di plastica rosso, di quelli che in Canada usano per ricordare i soldati caduti. In un attimo il tunnel diventa un caso di cronaca. Subito si parla di cellule terroristiche che hanno scavato quel buco per i loro complotti antioccidentali. Su Twitter, in pochissimo tempo, appare un hashtag che dice Terror Tunnel, il tunnel del terrore. E i giornalisti, come spesso accade, ne enfatizzano il lato oscuro, misterioso e ovviamente potenzialmente pericoloso. Chiudendo i loro servizi in radio o in TV con domande del tipo chi è l'uomo che ha scavato quel tunnel e soprattutto perché lo ha fatto? La polizia invece agisce in modo diverso. L'idea di pronto intervento canadese è molto lontana da quella americana o da quella italiana. Nell'ambito della caccia all'uomo per chi avesse costruito il tunnel, un poliziotto un giorno ha semplicemente fatto un tweet che diceva così: «Se avete costruito un tunnel vicino al Rexall Center di Toronto, chiamateci, ok?» La polizia di Toronto ha sottolineato che non è illegale scavare una buca. A quanto pare non è stata infranta nessuna legge, insomma. Fin dall'inizio hanno detto di non avere trovato alcuna prova di terrorismo e non hanno voluto saltare alle conclusioni. Insomma, sangue freddo. La polizia va in televisione e mostra le immagini di quegli oggetti che sono stati trovati nel tunnel. Una scala, un generatore e una pompa. E chiedono semplicemente agli spettatori: queste cose vi fanno venire in mente qualcosa o qualcuno? Qualcuno sa qualcosa di questa roba? E quella si rivela essere esattamente la mossa giusta. Perché a guardare quel programma in TV c'è un tizio, si chiama Bocco Marich. Lui, dalla poltrona di casa sua, vede quella scala, vede la pompa e dice: «Ehi, ma quella roba lì è roba mia. L'ho prestata qualche giorno fa a un mio dipendente, Elton McDonald». Elton è un ragazzo di 22 anni, lavora come muratore. Vive in una casa popolare poco lontano dal parco e dal tunnel, insieme alla madre e a due sorelle più grandi. Elton è un ragazzo tranquillo, che è cresciuto in Giamaica ma si è trasferito in Canada quando i genitori si sono separati. In casa gli spazi sono molto stretti. Elton vive con la mamma e le sorelle. Lui è molto bravo nel suo lavoro e un giorno decide che vuole un posto tutto per sé, dove poter stare in pace. Da bambino sognava di costruirsi un mondo sotterraneo tutto per sé e così cerca il posto giusto e quando lo trova semplicemente inizia a scavare. Ci impiega 2 anni a crearsi il suo posto nel mondo. Un tunnel alto circa 2 metri e lungo 10, perfettamente puntellato e impermeabile. Elton si procura un generatore e tira dei cavi in modo da avere anche la luce elettrica. È un posto solitario e perfetto per lui. Quando la polizia lo trova, nota subito il nome di un'impresa edile su alcuni attrezzi e si mette in contatto con il titolare. È la persona che in TV ha visto il servizio, si chiama Boko Maric. È una persona onesta e per bene. Infatti, quando lo contattano dicendo che i suoi attrezzi sono stati trovati nel tunnel misterioso, lui sobbalza dalla sedia anche perché sa bene di averli prestati a uno dei suoi migliori lavoratori. Boko quindi contatta subito Elton e lo convince ad andare dalla polizia e a raccontare tutto. Elton quindi esce di casa, convinto che non ci tornerà mai più, perché sarà messo in carcere. E invece, quello che gli dice la polizia è: «Ok, non è un reato scavare un tunnel, ma non farlo più». La storia dello scavatore, come è stato soprannominato Elton MacDonald, è stata raccontata su una rivista canadese che si chiama Maclean's, con il titolo «L'incredibile storia dietro al tunnel misterioso di Toronto». E grazie a quell'articolo Elton ha iniziato una raccolta fondi per poter avere un piccolo capitale con cui iniziare una sua impresa edile. La somma minima erano $10,000, in pochi giorni l'ha superata e alla fine ne ha raccolti quasi 20,000. Nei ringraziamenti sul suo sito dice: «Grazie a tutti e prima o poi, quando avrò un terreno tutto mio, costruirò un nuovo tunnel». La storia di Elton MacDonald noi l'abbiamo sentita in uno dei nostri programmi preferiti, che è This American Life. Si intitolava questa puntata What's Going On In There? Che cosa sta succedendo laggiù? E tra le varie storie c'era esattamente questa, la storia di Elton MacDonald. Se per caso qualcuno si è mai scavato un tunnel o si è mai fatto un appartamento sotterraneo, mandateci la storia, lineadombra@radio24.it, e ci raccontate qual è il confine tra la vostra luce e la vostra ombra, che probabilmente il confine è semplicemente una botola per accedere al tunnel, ma tant'è, è comunque un confine. Ora ascoltiamo Le strade in diretta e poi torniamo a raccontare qui i vostri diari dalla quarantena. Promo 24. Smart working, un'espressione che abbiamo ormai imparato a conoscere. Significa poter lavorare da casa o da qualunque posto, ma bisogna essere attrezzati con la tecnologia adatta. Conosci Claudia di Enfone? Claudia è il centralino in cloud che ti permette di portare il tuo numero fisso aziendale sempre con te.

further up the road. Try not to hold on to what is gone. I try to do right what is wrong. I try to keep on keeping on. Yeah, I just keep on keeping on. I hear a voice call, calling out for me. These shackles I made in an attempt to be free. Be it for ease, be it for love, I won't take the easy road. Ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh. I've woken up in a hotel room, my worries as big as the moon, having no idea what or where I. Something good comes with the bad. A song's never just sad. There's hope, there's a silver light. Show me my silver light. Show me my silver light. I hear a voice call, calling out for me. These shackles I made in the town to be free. Chiudiamo anche la puntata di oggi di questa giornata di Linee d'Ombra con la nostra storia seriale, la storia che Anna Maria ha raccontato per intero a Mauro Pescio, e siamo arrivati al pezzo, devo dire, più culinario della storia, visto che è una storia che parla del vizio capitale della gola, col quale finiamo di fatto poi tutto il ciclo di storie seriali legate ai vizi capitali. In questo, fino a questi giorni, però, la storia di Anna Maria era stata una storia di sottrazione della gola, da una sorta di allontanamento dal mondo del cibo e da se stessa. Ora invece ci si è riavvicinata, ha cominciato a studiarlo il cibo, e le cose che ci racconta, non solo, come sempre quando si parla di roba da mangiare ci fa venire fame, ma ci dice delle cose, ad esempio delle mele, che io non sapevo. Poi si ammala mia suocera e si ammala e continuo questo percorso di studio, di approfondimento, di studio. Comincio ad affrontare il cibo in maniera diversa, cioè comincio a ero già iscritta a Slow Food, però non partecipavo mai alle serate, quindi a vedere le serate, le cose che si facevano, ad andare nei mercatini, a capire determinate cose, a cominciare a vedere come il non bello era comunque bello. Cioè la mela fufugnata era una mela che aveva un sacco di storie da raccontare, molto meglio della mela Melinda, bella, perfetta, stupenda nella sua perfezione genetica, no? Una mela bacata era come me, buonissima, con qualche difetto, ma buonissima. E quindi era questo il cibo che io ho cominciato a studiare. Ho cominciato a cucinare anche le cucine degli altri paesi, le cucine di tutto il mondo. Dapprima ho studiato l'aspetto storico, antropologico, e poi la trasformazione in un piatto. Tutto questo lo facevo per me, per capire. Avevo trovato un mio nutrimento e volevo approfondirlo. L'idea di farne un lavoro non mi balenava nemmeno per la testa, ancora all'epoca. Tutti gli spunti che stavo ricevendo li stavo utilizzando per questa sorta di arte della maieutica, li stavo utilizzando per farmi partorire, cioè stavo diventando levatrice di me stessa. Ma avevo bisogno che quella levatrice fosse una levatrice esperta, e quindi dovevo studiare per diventare levatrice. Il momento decisivo è arrivato quando ho saputo che mia suocera, che era malata da un po', aveva bisogno di essere più seguita. Lei aveva fatto moltissimo per me, e anche quando sono stata ricoverata, lei è stata l'unica che non mi ha mai giudicato. Lei mi ha proprio amata, nel vero senso della parola. Mi ha dato veramente tanto amore, un amore rustico, molto fattivo e senza mai far pesare nulla. Il suo cruccio, quando ha saputo di essere malata, era stato quello di non essere più presente con mio figlio Edoardo, quanto lo era stata con mia figlia Enrica. In passato, quando lavoravo fino a tardi, mi aveva sempre tenuto i bambini, e sempre con estremo piacere. Io tornavo a casa dal lavoro, ti dicevo, tardi, e le trovavo vestite. Cosa stai facendo? Io sono il battito di Kansas City, io sono la pulzella, per dirti, no? Stavano mimando una storia di cowboy, di western, oppure le fanciulle, cose di questo tipo. o si travestivano, cioè bellissimo se vuoi. E allora decisi di licenziarmi per seguirla e decisi anche di trasferirla a casa. Decidemmo di trasferirci in una casa più grande per poterla avere con noi. Lei avrebbe avuto bisogno a breve di un letto particolare, della bombola d'ossigeno, ma io ci tenevo che potesse vivere quest'ultima esperienza di vita familiare con i bambini che andavano avanti e indietro, il cane, il gatto, magari anche qualche lite. Insomma, volevo darle la possibilità di vivere con quello che accade in una famiglia, i rumori e i sapori di una famiglia. Purtroppo mia suocera è scomparsa prima che la casa fosse pronta. Ma quando mi sono accorta che le cose si mettevano male, sono andata io da lei. La chiudiamo qui, la chiudiamo così anche questa puntata di Linee d'Ombra, il programma che vi racconta tutti i giorni delle storie che hanno a che fare con un confine, con una linea di separazione. Grazie per tutte quelle che ci mandate, lineedombra@radio24.it. Se avete voglia, mandateci anche una vostra storia, un vostro audio di rinascita. Potete mandarlo direttamente al nostro profilo Facebook. Entrate nei messaggi di Linee d'Ombra, schiacciate sul microfonino del vostro telefono e via. Potete raccontarci una storia che vi ha fatto rinascere, che vi ha fatto tornare alla vita dopo un periodo buio, dopo un periodo difficile. E vale tutto, vale in metafora e fuori di metafora. Io ringrazio le persone che in questo momento così difficile riescono a tenere insieme questo programma e a farlo continuare tutti i giorni nonostante tutto. Anita Panizza, Paolino Corleoni, Mauro Pescio e Luca Micheli. Grazie a Radio 24 che continua a fare magnificamente il suo lavoro. Grazie a tutti voi che ci ascoltate, che scaricate i nostri podcast. Ora diamo la linea al GR e torniamo puntualissimi domani per raccontare storie, che rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!